Fabio, sì. Andrea. Maurizio, mi senti? Maurizio. Hola. Qui c'è la postale, sta misurando. Che? Ho detto c'è la postale che sta misurando. E dove? Non lo so. C'è un po' allucinante. Sì. Ah, non è quella, non c'è da niente. C'è un gnu tutti i canali. Già da parecchie volte che lo sento. C'è una cabina che è in fumo qua. Oh, io non l'ho mai sentito, sempre il rumore della... quello che facevano prima. Io ce l'ho sul ricevitore. Vabbè, stiamo allerta, però non si sa mai. Ci sentiamo dopo, ciao. D'accordo. Non c'è problema, sa. Attenzione, Gian Maria. E chi è? Buonasera. Caspita. Bebe. Oggi la metà là. E lo fa vedere lì. Così che il padre mi ha detto, proprio che come stai già laggiù, dice saluto a Torre Squalo, a Bacchisi, a tutti. Così mi ha detto. Sta bene, sì, sta riprendendo. Dice un po' di... ancora disoffranto mentre i prati, gatto, lui ha poveretto, gatto, adesso prende un poco, ya. Ma chi se ne prende subito, poi a chi, di lui mi canto diabete che peggia ancora, fa che un cortisolo che pigliese peggia ancora, la glicemia è un beata, ma un cortisolo, capito, è più questo fatto dell'influenza che l'ha beccato in pieno e l'ha fatto via tante cose, capito? E questo è? Si è fatto pure la cosa, già fatto un vaccino. A me pare che il vaccino non l'ha fatto nulla. E a me pure mi sembra, ma che la presente, la gente so. E ogni volta che facciamo lo faccio, non sentiamo più male ancora, così che abbiamo non si sviluppa né più per la mano. E non siamo veri noi, capito? E non l'ha fatto, dice, non l'ha accudito la moglie, e cosa avete di chiacchierata? Insomma, mi ha messo male, ma male veramente. Si fa la vicina quasi 400-450 dito. Il cortisone è brutto, eh. Il cortisone fa sollevare parecchio. No, deve andare a pagare qualche altra cosa per non fargliela aumentare. Purtroppo devi che i dolori sono troppo e per cui a oggi ha bisogno di quando ha pigliato il sacco dalle arterie e dai muscoli dice che non mi sono riusciti e allora l'ho fatto da sotto, dice che l'ho fatto mila da sotto, capito? L'arteria di sotto. L'unico rugo è questo, se c'ha le gambe gonfie anche, l'unico rugo è questo da pigliare. Anni passati, me la risente, dice, vera di morire, basta. Cazzo, lascio male i ribuzzi, ma da sotto è peggio ancora, dico. Quando si ha il diabete forte, c'è nulla da fare. Speriamo bene, là. Allora, speriamo bene, ok, ma da salutarvi, appena c'è tra dubbi, è terminato questo momento che me l'hai detto a salutarvi, Tagliare tu alla prossima, quando dovrà chiamare. Ma chi se lo sente, d'accordo? Deve da sena fragendi, o sarà nella serrana del garage, e nella casa sua, che il tuo si ritira, Edo. Ma il 27 ha acceso, grazie? Sì, ce l'ho acceso. Passiamo al 27, dai, meglio. Andiamo in chibi.